Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Me, I like to be a Red Cross, whereby I see people when they are hungry, I help them with food. That. And you? I want to be a minister of education. Minister? Yes. When me, I'll be 60 years, I like to be ambassador. Ambassador where? Like Italy. Me, I want to be the best player. La la la la la la la. Un saluto da Roberto Antonini e da Gigi Donelli. In conclusione dunque di questo lungo viaggio nell'Africa occidentale, nell'Africa centro-meridionale, ci troviamo qua assieme con Gigi Donelli, un po' per trarre le conclusioni partendo da testimonianze raccolte in uno slam, in una baraccopoli a Kibera, alcuni bambini che esprimono i loro sogni. Sono sogni quasi universali per certi versi, sono sogni di bambini maturi. Gigi Donelli, cosa si può dire nel rapporto che questi sogni hanno con la realtà che tu hai visto nell'Africa occidentale? Beh, certo, i sogni naturalmente sono sempre legittimi, anzi sono indispensabili, soprattutto in un continente di giovani. Certo, le situazioni sono molto diverse tra loro. In estrema sintesi, Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria e Camerun sono in fondo un buon esempio per ricordarci che parliamo di Africa, ma dobbiamo parlare di paesi africani. A volte le situazioni sono davvero molto critiche. Sì, potremmo addirittura dire che per certi versi l'Africa non esiste. Quando generalizziamo, dobbiamo renderci conto che per ogni generalizzazione ci sono almeno 5 eccezione che un paese come la Repubblica Democratica del Congo è più grande dell'Europa occidentale, ma qualche elemento comune c'è e credo che questa frustrazione comunque tra i sogni e la realtà la si riscontra un po' ovunque, dallo Zimbabwe all'Africa occidentale in fondo. Senz'altro, frustrazione è uno dei fattori dominanti, almeno di questa parte del viaggio che io ho vissuto, desiderio di partire, di lasciare. Perché? Perché le difficoltà sono enormi e facciamo anche un micro esempio. Il pallone di cui tanto parliamo in fondo in quest'anno 2010 della prima Coppa del Mondo in Sudafrica. Il successo delle squadre africane in realtà ha creato dei campioni famosi nel mondo, ma ha anche di fatto distrutto il sistema calcistico nazionale, per cui i campionati non sono seguiti, per cui per un buon giocatore africano è praticamente impossibile avere un contratto con cui vivere nel proprio paese. Ecco, questo è un po' il paradosso e anche, se vogliamo, il grande pericolo che l'Africa vive in questi anni, un pericolo che addirittura mi è stato sintetizzato da chi mi ha detto: adesso addirittura importiamo anche i nostri sogni. Certo, la globalizzazione in fondo porta ancora di più in Africa dei modelli di consumo, di sviluppo che fanno sì che questi sogni a un certo momento si scontrino con una realtà molto difficile, da qui anche una certa frustrazione, soprattutto negli adolescenti, come dicevi. Bene, io ne approfitto anche per ringraziare i nostri ascoltatori dopo questo lungo viaggio in alcuni paesi africani che ci ha permesso di scoprire comunque un continente affascinante. Assolutamente, un ringraziamento a cui mi associo e ringrazio anche te per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.